Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 29. Ora iniziamo il nostro studio più qualitativo. Tutto consiste di 5. Prima c'è l'Ein Sof, la luce infinita. E questa luce scende fino a toccare Assiyah e il nostro mondo come una continuazione di mondo Assiyah. Tutti questi mondi stanno venendo dall'Ein Sof. Prima c'è la luce sottile. E la luce diventa più ruvida e più rozza. Guarda il disegno. Percepisci il disegno, ma non memorizzarlo. Questi mondi non esistono su carta, ma in te. Sto parlando di te. Ma perché? Quali sono gli elementi? C'è un principio. Nulla esiste nel più piccolo dettaglio che non esiste nel comune. Voglio dire, l'esistente. È tutto qui. La luce scende da sopra a sotto. Ciò che è dato all'universo esiste di 5 mondi. 5 mondi spirituali, e questi 5 mondi spirituali hanno dentro di loro anche 5 mondi. Ogni parzuf è parte di questi 5. Ogni parte ha la loro radiazione speciale. Asferot speciale in sé. Ha un potere speciale. E ogni parzuf ha in sé anche 5 parti. Il significato della parola parzuf è sequenza. Un oggetto spirituale, un corpo spirituale, una sequenza di 10 sfirot. E ogni parzuf ha 5 o 10 sfirot. E ogni sfera esiste di 5. E ogni parte di questi 5 sfirot ha 5 subsfirot. E queste subsfirot hanno sfirot in sé, così avanti, una sequenza senza fine. Sappi in dettaglio, questo è senza fine. Anche se parlo con te dei 5 mondi, voglio che tu guardi al principio. Quando comprendi il principio, tutto diventa semplice. Devi sapere che il Creatore non ci ha dato cose difficili. La semplicità è una parola chiave in Kabbalah. Il vero genio è essere ricorrente nella semplicità. Quindi anche il tuo lavoro deve essere semplice. Non farlo complesso. Siamo noi i soli che rendiamo le cose complesse con il nostro intelletto. Ricorda questo, in sostanza è ancora semplice. Ogni sfera esiste di 5 o di 10 sfere. Quando sappiamo che ogni sfera esiste di 5, l'intero universo esiste da 5, è sufficiente per noi studiare queste 5 sfere. Quando comprendiamo la parte, comprendiamo il tutto. Ogni sfera ha cinque parti, Keter, Chochmah, Binah, Zeir, Bint, Malchut. Keter è la corona. Chochmah è saggezza. Ogni cosa che esiste ha queste cinque parti. A volte parlo di 10 sfere, lasciatemi spiegare questo. Ogni cosa è cinque, ma Zeiran Pin ha in sé sei sfirot. Lo ripeto molte volte. Tutti questi sei sfirot di Zeiran Pin sono della stessa qualità. Solo considerando l'un l'altro, loro sono differenti. Quindi possiamo parlare di 10 sfere. Ma poiché essi sono di una qualità, è una sfera. E quando guardiamo a Zeiran Pin come una sfera, noi parliamo riguardo a 5. A volte è più facile parlare riguardo a 5 sfirot. E questi 5 sfirot sono il soggetto del nostro studio. Studiamo i punti di forza di questi 5 sfirot, la correlazione tra loro, eccetera. In un modo, le forze e la correlazione sono gli stessi, sono solo il posto è diverso. Posso parlare dei cinque sfirot in Binah, di Binah. Allora, ogni cosa è del colore di Binah. Tutti i mondi sono allora in Binah. Dal punto di vista di Binah. Abbiamo cinque mondi, Adam, Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah. Cinque mondi spirituali speciali. Ed è sempre in questo modo. Lasciatemi fare un esempio. Keter è Adam, Kadmon. Chochmah è Atzilut. Briah, Binah è Briah, Zeiran Pin è Yetzirah, Malchut è Atzilut. Come già sai, tutto deve essere in conformità con la qualità. Ci deve essere conformità con la forza di Atzilut, eccetera. Quando parlo del comune o in dettaglio, è sempre lo stesso elemento dell'universo. Micro o macro, è lo stesso. Studiando Binah impariamo la sua natura e la sua funzione e con quale mondo lei è connessa. Quando sai come funzionano questi cinque sfirot di Binah, qual è la natura di questi cinque sfirot, Vuoi vedere la natura anche dell'altro sfirot? Nei cinque sfirot tu puoi vedere la funzione di come la luce passa attraverso e come è la ricezione. Cos'è la luce e cos'è il man? Ma è la nostra preghiera, la nostra richiesta. Ogni richiesta deve venire dal basso all'alto. Studiando Minà impariamo riguardo il collegamento. Minà è imparentato al mondo Briah. Qual è la natura di questo mondo? Del mondo Bria. Abbiamo anche i nomi del creatore. Il nome di quattro lettere del creatore Yud Hei Vav Hei Havaya. Possiamo collegare le sferot con questo nome del creatore Yud Kochma Hei. Prima hei è Bina, Vav, Zeiran Pin è ultima hei Malchut. Prima c'è Ein Sof, che l'irruvidimento. Quando c'era solo la luce, i Kilim non esisteva. Non esistevano. Quando la luce ha iniziato il primo irruvidimento, quello che divenne in esistenza fu Keter. Keter è l'inizio di creazione. Keter è così sottile, così delicato che non possiamo rifletterlo in una lettera. Lettera significa già una forma di irruvidimento. Lettera non significa irruvidimento, ma è un parallelo tra luce e cli. Un parallelo tra i posti vuoti e la lettera scritta su un foglio. Puoi vedere i posti vuoti su una carta come luce. Tutte le forme di lettere ai posti vuoti tra le lettere. In un certo modo tu puoi vederli come l'universo. E con queste lettere e posti vuoti puoi investigare e comprendere l'intero universo. E non hai bisogno di un binocolo per cercare il cielo notturno. Studiando queste lettere è possibile per te imparare l'eterno, considerando la forza e l'esperienza spirituale. Keter è la prima sfera, e nominiamo questa sfera non a titolo di una lettera. Keter è l'inizio, quindi usiamo un punto. Il punto deve essere visto come l'inizio della lettera Yud. Cosa significa questo? C'è solo luce, pura luce senza irruvidimento. E non è neanche Ein Sof, c'è già un po' di irruvidimento. Ma non l'irruvidimento reale è ancora luce. come luce. Keter, Chochmah, Binah, Zeir, Anpin, Malchut sono punti di forza dell'irruvidimento della luce. Come possiamo studiare questo? Come possiamo misurare questo? Come possiamo fare i calcoli? Come possiamo parlare circa le qualità? Così tante domande e una risposta. Per un cabalista è sufficiente avere le lettere. Le parole anche, ma lettere. Con le lettere e i posti vuoti può fare diverse combinazioni. C'è la gematria, gematria, c'è la forma delle lettere. E lui le usa per analizzare tutte le leggi dell'universo. Com'è possibile questo? Non è nostro. Ci viene dato dal grande creatore. Così non saremo perduti e cammineremo come irragionevoli animali. Puoi confrontare questo con qualcosa nel nostro mondo materiale. Quando acquisti una nuova macchina insieme alle macchine, ricevi un manuale. Il creatore aveva fatto lo stesso con la creazione, con la sua creazione. E le ha dato, dà, e lui darà sempre un manuale a particolari anime. Sempre ci sarà qualcuno che ha le qualità di dare. Ci sarà sempre qualcuno che è in grado di purificarsi, così può ricevere dalla fonte di vita. Sempre ci sarà qualcuno che è capace di rendersi ricettivo per la luce e passarlo a noi. Non pensare che sia stato facile. In quei giorni queste forze non erano attratte qui sulla terra. Loro dovevano tirarle giù. Nel nostro tempo è più facile. I punti di forza sono già qui. E chi ha il forte desiderio può sperimentare questi punti di forza. Ma al forte desiderio deve esserci come bene la volontà e la forza. E la forza di purificarsi. Per favore, prendi nota di questo. Non c'è magia, nessuna favola. Ma quando qualcuno può purificarsi, ogni giorno sperimenterà miracoli. C'era solo luce, luce pura. Non esiste altra cosa. Poi, improvvisamente, ci fu l'irruvidimento della luce, tutti i tipi di forme, i mondi. Quando hai una matrice, puoi vedere com'è l'originale. Prima il creatore guardò nella Torah e poi lui creò il mondo. Cosa significa questo? Per favore, non immaginare una persona che guardava nei rotoli della Torah. Il rotolo era prima della creazione. Ma lui guardò alla matrice. E allo stesso tempo la creazione era lì. Siamo quelli che hanno bisogno dei paragoni. L'unica cosa che dobbiamo fare è guardare alle lettere, guardare alla forma, le relazioni, le combinazioni di parole, eccetera. Da questo imparerai a conoscere i mondi e verrai all'esperienza e più tardi potrai portarlo dentro. Quindi c'è l'universo, l'irruvidimento della luce e le lettere, tutti i tipi di combinazioni di lettere, con i posti vuoti. Un posto vuoto significa luce. E quando c'è una lettera significa che c'è un confine. Limitazione. E limitazione significa killing. In un modo puoi vedere le lettere come ricevitori. Prima abbiamo Keter e il punto, seguito da Chokmah indicato dalla lettera Yud. Prima il punto di Keter su un foglio vuoto. È lo stesso con l'universo. Prima non c'era nulla dell'inizio del irruvidimento della luce. La forza di Keter è la forza dell'inizio della creazione. Ella indichiamo con il punto della lettera Yud. Quando vedi il punto, tu non vedi Yud. Quando abbiamo il punto, c'è già un ricevitore della luce. Ma lo stadio successivo è lo Yud, e Yud è Chokmah. Yud è più di un punto, ma è ancora la più piccola lettera dell'alfabeto. Perché è la lettera più piccola? Chokmah è come luce, quindi non ha un cli. C'è un po' di irruvidimento, ma è anche troppo piccola per essere un vero cli. Ha ancora le proprietà della luce. C'è somiglianza con il punto, ma lei è ancora molto sottile. Nell'alfabeto ebraico le lettere sono anche numeri. Aleph è 1, la Bet è 2 e lo Yud è il numero 10. Lo sviluppo continua. C'è Binah indicato con la prima lettera Hey. Ciò che vediamo è una relazione con la forza dell'universo. c'è la relazione tra la luce e i kilim. E noi lo confrontiamo con le lettere su un foglio di carta bianca. Quel che vediamo sono tutti i tipi di relazioni diverse tra la luce e kilim. Le lettere sono kilim. Ci sono diverse lettere e come sai, nelle lettere ebraiche non ci sono vocali. Certamente ci sono vocali, ma diverse rispetto al nostro alfabeto. Nell'alfabeto ebraico una vocale è indicata con un punto o di più, o con un punto sotto o sopra una lettera. Oppure puoi vedere corone o linee. Tutte queste hanno il significato di diversi vocali. La prossima sfera è Zeirampin. Esilampin è indicato con la lettera Vav del nome Havaya. Perché? Più tardi ti darò maggiori dettagli, ma per ora è importante imparare i principi. Come? E non perché. Quattro elementi e questi si riflettono nelle quattro lettere. Sono il riflesso dei punti di forza dell'universo. E quando impariamo su questi elementi, puoi portarti in conformità con l'Eterno dentro di te. Passo dopo passo impareremo questo. Quando continuerai, approfondirai sempre di più e vedi la raffinazione, i dettagli. Zeirampin è una parola aramaica e significa piccola faccia. L'aramaico è una lingua importante in quei giorni. Puoi confrontare questo con il tempo quando il latino era molto importante nel nostro mondo orientale. Il latino era per le persone più civilizzate, più coltivate. È lo stesso con il linguaggio aramaico. L'aramaico era la lingua parlata da coloro che erano civilizzati, avevano studiato, eccetera. C'era un aramaico volgo, per volgarizzato, e un aramaico colto. C'è anche un altro Ampin, Arihampin, che significa lunga faccia, ma questo più avanti. Abbiamo già menzionato Keter Chochma Binah e Zeirampin. E il quinto è Malchut. Malchut è indicato anche con la lettera He, ma l'ultima E. Keter è solo come luce, seguito dai quattro gradi di luce, le quattro forme di Kli. Questi quattro gradi si trovano in ogni cosa. Questo è il nome di quattro lettere del creatore, Yud-Heh-Vav-Heh. Ciò che esiste ha questi quattro elementi. E oltre a questo abbiamo tutti i tipi di varietà. Non pensare che c'è varietà nel suo nome. La verità è in noi come sperimentiamo questi quattro gradi. La luce era, è e sarà sempre senza forma. La luce non arriva o va via. Più sperimentiamo la luce, più abbiamo la sensazione di qualcosa di nuovo. Qualcosa in più è questo dà la sensazione che la luce sta entrando in noi. All'inizio loro non potevano sperimentare, ma ora tu puoi. Perciò quando partecipi alle lezioni, non parlare, cerca di concentrarti, cerca di concentrarti, non parlare, cerca di concentrarti, non parlare con gli altri, cerca di concentrarti durante le lezioni. È per te che stai leggendo questo. Leggendo o ascoltando questo, concentrati e senti. Non sono le parole, sono importanti, ma anche in un certo senso è l'incisione giusta di quel che accade in questo momento. Vivi in ciò che leggi, che ascolti. Per esempio, io vivo in aria e lo porto a te. Non possiamo vedere come funziona, quindi non pensare. Lascia che la tua mente sia vuota. Nessun problema, nessuna reazione, solo guarda e leggi. Cruciale è la connessione tra la forza del creatore e te. E questa è la forza eterna di Havaya. E questo è ciò che già esiste nell'universo riflesso qui con le lettere. Queste quattro lettere sono la connessione con il nome del creatore. Quel che esiste, esiste da queste quattro lettere. Il nome eterno Havaya Yud Hei Vav Hei, con le 10 Sfirot. Guarda attentamente, Keter è il punto. In un certo senso noi non vediamo Keter perché in realtà Keter è in soffitto. E viene da Ein Sof. Quel che è venuto nell'atto di realizzazione è questo nome Havaya. E qui, nella forma di Kilim, ricevitori, creature e tutti i tipi di varietà di questo nome. Impareremo che questi sono 10 nomi diversi. Ovviamente il creatore ha più nomi, ma per ora questo è ciò che impareremo, sperimenteremo in tutti i tipi di modi diversi. Ogni sfera ha qualcosa di speciale, un colore speciale. E questo si riflette nel modo delle lettere nella gematria, nella forma e anche se c'è così tanta differenza è uno. Sperimenti ogni sfera differente. Ma in un certo modo è la stessa. Ogni posto nell'universo è in questo mondo, tra l'Ein Sof e il nostro desiderio, è uno. Perché di questo possiamo parlare, di una relazione personale tra il creatore e l'essere umano. Tutto questo si svolge dentro di te. Verrà un momento che tu sentirai l'uno. Senti la conformità con la sua qualità. Quando vedi Chochmah, sai che è connesso con la lettera Yud. Quando vedi Binah, sai che lei è connessa con la prima Hey dell'Eterno Nome. A volte parlo di sei sfere del Zeiran Pin. Questa è la lettera Vav, che ha anche la gematria di sei. Più dà la gematria 10 e Hei è 5. Quando sommi questi numeri, 10 più 5 più 6 più 5, è 26. La Torah viene data alla 26, 27, 26, la generazione di Adam. Generazioni dopo Adam. Ogni cosa è connessa con l'un altro. Da Adam fino a Noè, c'erano 10 generazioni. Da Noè fino ad Abramo, vediamo anche 10 generazioni insieme 20. Quindi abbiamo sei generazioni. Il figlio di Abramo era Isacco e il figlio di Isacco era Giacobbe. Poi Levi, finché non veniamo a Mosè. Perché Mosè? Questa generazione era pronta a sperimentare il nome di Avaya. Prima di Mosè non erano pronti. Essi sperimentarono il nome Elohim, che significa severità. Avaya è il nome di misericordia. Ed ero rivelata a Mosè. Quando apri la Torah, vedi il nome Elohim. Questo è un nome pesante, il nome di Gin, severità. Con questa severità Il creatore creò il mondo e più tardi lui scoprì nella misericordia Chesed. Lui scolpì nella misericordia. Prima di Mosè tutte le generazioni erano nella qualità di severità. Loro erano le generazioni di malfattori, in generale. 10 generazioni di malfattori perché non avevano sviluppato la loro consapevolezza, non potevano sperimentare il nome di Avaya Misericordia. Mosè fu il primo a poter sperimentare il nome di Havaia. Il Creatore si era manifestato da sé a Mosè attraverso questo nome Havaia, misericordia. Prima della generazione di Mosè, c'era solo severità. Il Creatore lui stesso si manifestò a Mosè e gli diede la Torah. Questo è il tempo in cui il Creatore da sé si rivela di nuovo. Ma ora non solo per una persona, neanche per una nazione. Ma ora l'intero mondo può sperimentare il suo nome. Ora il nome del creatore Havaya deve essere rivelato attraverso la Kabbalah. Il suo nome è il progetto per l'intera umanità. Questo è ciò che sta accadendo. Oggigiorno, e questo fu già scritto nello Zohar. Ora puoi capire perché le persone hanno così tanto interesse nella Kabbalah. Vav a Gematria 6. E qui sta la conformità con le sei Sfirot di Zeirampin. Sempre Vav è il riflesso del nome della eterna forza creatrice. E quando abbiamo Malchut, lei è la seconda Hei. Ora ti ho spiegato la connessione tra le sfirot e il nome eterno. Quando parlo di 5 sfirot o riguardo 10 sfirot, è lo stesso. La manifestazione dell'universo riflette nel suo nome Havaya. Lui era, lui è e lui sarà. Mosè aveva il clì giusto. Mosè era l'uomo più modesto nel mondo. Lui si aprì per questo nome Havaya. Tutte queste lettere sono intrecciate. Sono intrecciati in questo nome Havaya. E il Creatore stesso lo rivelò a Mosè. Mosè era colui che ha sperimentato questo nome. Lui comprese il significato di questo nome Havaya. Era consapevole del passato, il presente e il futuro. Lui era, lui è e lui sarà. C'è un detto o un principio. Solo dalla carne il superiore sarà imparato. Solo dalla carne può sperimentare il divino. Ci sono più forme per apprendere riguardo il divino. Questo è possibile perché ogni cosa sta considerando la forma in conformità. Diamo un'occhiata a Keter. Keter è solo luce, pura luce. Keter è come Ein Sof. Come? Ma non Ein Sof. Keter è solo luce, è come solo luce, come pura luce, ma non la luce. Ma in essenza non è Ein Sof, ma la sua luce la circonda. Proprio come il cranio circonda il cervello di un essere. Vediamo Keter come un'aura che circonda Chokhmah e Binah. Potresti dire che Keter è un'aura, un teschio, e dentro ci sono Chokhmah e Binah. Parzuf significa 10 sfirot collegati tra loro, o 5 sfirot. C'è il Parzuf Keter, 10 o 5 sfirot con il colore generale di Keter. Cosa significa questo? C'è il Keter di Keter, Chokhmah di Keter, Binah di Keter, Zeirat Pin di Keter e Malchut di Keter. Malchut del Keter. Hanno lo stesso colore di Keter. E questo Parzuf di Keter ha un nome speciale, Galgalta, del mondo Adam Kadmon. Il Parzuf Galgalta è Keter di Keter, Chokhmah di Keter, Binah di Keter, Zeirat Pin di Keter e Malchut di Keter. Il livello non ha importanza. Può essere il Galgalta di Adam Kadmon o Galgalta come Keter, o il Galgalta di Azilut o di Bria o Yetzirah o Asiya o di Asiya. Quando parlo di Galgalta parlo di Keter o del Parzuf Keter. E Parzuf significa che tutti e 5 o 10 sfirot sono collegati in un livello Galgalta o Keter. Notate che ogni sfera ha in sé 5 o anche 10. Per esempio, Binah del Keter. Lei ha Keter della Binah di Keter. Chokhmah della Binah di Keter. Binah della Binah di Keter. Zeirat Pin della Binah di Keter. Malchut della Binah di Keter. Può essere che la tua testa è ora offuscata, ma non importa. Per ora senti. E la comprensione verrà dopo.